proviamo. Come nasce una canzone? I grandi successi di Marta Cagnola. Un nuovo appuntamento insieme per scoprire come nascono le canzoni che hanno accompagnato la nostra vita. Stiamo imparando come sono nati i grandi classici, dalla penna degli autori, ma anche dal vestito degli arrangiatori, dalle idee dei produttori. Incontriamo chi ha creato i brani che fanno parte della nostra memoria. Ecco chi è il protagonista di oggi. Oscar Prudente è nato a Rossiglione nel 1944. Inizia suonando la batteria a Genova, accompagnando, tra gli altri, Luigi Tenco. Collabora con Dario Fo, scrivendo le musiche per le commedie La signora è da buttare e La passeggiata della domenica. Come cantante partecipa al Cantagiro del 1968 e conosce Lucio Battisti, che lo porta nella sua numero uno. Nel 1973 il suo primo album, Un essere umano. Nel frattempo, però, inizia un altro importante sodalizio, quello con Ivano Fossati. Negli anni Ottanta scrive musiche per spettacoli teatrali e jingle pubblicitari, contribuisce al lancio di Francesco Baccini. Uno dei suoi brani più famosi è un'inconfondibile sigla televisiva. Per fortuna ho avuto una madre intonata. Secondo me quello conta molto, perché quando ti canta le ninna nanne stonate sei rovinato per tutta la vita, non canti più. Poi una volta al mercato a Genova c'era un banchetto dove io avevo sentito una canzone con l'armonica a bocca, così avevo una suonetta in genovese, si dice la suonetta. Questo mi ha visto con la suonetta, era un bambino carino e me l'ha regalata. Purtroppo un po' le vicende familiari, un po' una volta, no, studia, dovevano mandarmi al conservatorio ma non hanno voluto, io da solo suonavo. Sotto casa, per fortuna, c'era una scuola di batteria, perché una volta i batteristi di Genova andavano sulle navi, perché o nei night club con le bagage. I più bravi andavano nei due o tre night club che cominciavano con l'entrenese, col varietà, e dove ho trovato subito lavoro in uno di questi locali, si chiamava il New York Bar. Lì chi veniva? Tenco veniva lì col sax, poi frequentando Luigi, che accompagnavo nelle serate quando cominciava a essere famoso. Io te lo devo chiedere com'era suonare con Luigi Tenco, però. È stato il mio mentore, insomma, era. Poi era un uomo con una cultura eccezionale, intelligentissimo, allegro, nonostante le canzoni e nonostante, però nella vita era spassoso, spiritoso. In giro era faticoso perché era timidissimo. La timidezza sua mostruosa, non avrebbe mai dovuto andare a Sanremo, l'abbiamo sconsigliato. Tutti quelli che gli erano vicini l'hanno sconsigliato, perché allora Sanremo era l'arma bianca, la battaglia, perché cambiavano i numeri delle camere di Londra, 16 diventava 19, perché bussavano nelle camere per le prove, così uno provava 3 minuti di più, capito? Non ci posso credere. Ma sì, era la battaglia all'arma bianca, uno così in quell'ambiente lì. E lui la sera doveva sempre alterarsi un po' per cantare, quindi era faticoso. E lontano, lontano nel tempo, qualche cosa negli occhi di un altro ti farà ripensare ai miei occhi, i miei occhi che t'amavano tanto. È un aneddoto che ti racconto a metà per rispetto a Luigi, è che una volta un veglione a Roma, all'hotel Hilton, non cantava mai, era sempre al bar. Ad un certo punto si decide, ma era troppo tardi perché era già mezzanotte, si decide a mezzanotte e io, sai, a mezzanotte, tin tin, buonanotte, poi la samba, sì, i trenini, trototot, in quel preciso istante decide di cantare. E lì ci fu una lite generale. Vabbè, veramente, adesso non riesco più a sentirlo perché mi fa fatica. L'espressione di un mondo per caso ti farà ricordare il mio volto, l'aria triste che tu amavi tanto. Insomma, vivendo in questo ambiente qua, ho preso sta chitarra e mi sono messo lì dalla mattina alla sera a strimpellare e ho cominciato a appassionarmi della parte, diciamo, più musicale della canzone. Ti ricordi la prima canzone che hai scritto, le prime tue canzoni che davvero si possono chiamare canzoni? Io sono stato anche cantattore, più che prima che ancora che cantautore. Hai conosciuto un certo Dario Fo. E con lui ho scritto una canzone che poi, di cui Fabrizio De André si è poi avvalso, che è e dormi, dormi che io ti canto, e che è Via del Campo. Via del Campo. Eravamo stati sollecitati da un pensiero che avevamo letto in un piccolo brano di un canto popolare veneto, di un innamorato che a un certo punto immagina di ritrovarsi dentro, diciamo, il contenitore d'acqua che portava la ragazza sul capo, no? E oscillando nel camminare, ecco che nasce prima un'onda, poi una tempesta, e lui, l'innamorato, che sta dentro questo mare immenso, capisce che non ce la farà a salvarsi. E allora abbiamo cercato di metterla in una forma poetica adatta a una musica. Ed ecco che ne è uscito questo canto. La mia amorosa la va alla fonte con un sidelo de rame in testa, quel che pare de sé protesta, vado il passo di là sulla mare. Via del campo c'è una graziosa, gli occhi grandi color di foglia, tutta notte sta sulla soglia, vende a tutti la stessa rosa. Via del campo c'è una bambina con le labbra color rugiada, gli occhi grigi come la strada, nascon fiori dove cammina. Via del campo c'è una puttana, gli occhi grandi color di foglia, se di amarla ti vien la voglia, basta prenderla per la mano e ti sembra di andar lontano. Lei ti guarda con un sorriso, non credevi che il paradiso fosse solo lì al primo piano. Quella volta lì, De André, che non conosceva ancora bene, venne a vedere una commedia chiamata La passeggiata della domenica, che musicai e dove cantavo questa canzone qua, scritta, arrangiata più che scritta, perché questa canzone era un canto delle mondine, me la cantava e io cercai di metterla in musica e adattarla a quella commedia lì. Fatto sta che io non sapevo niente né di CIA né di niente, Fabrizio De André arrivò lì, venne nel camerino a salutare Dario Fo, dice: ah, quel ragazzo che canta canzoni, posso usarla, posso farne una cosa mia? Sì, Dario Fo. Allora aveva un successo strepitoso, praticamente gli regalò tutto e... ed eccomi qua. E non c'è la tua firma. Non c'è. Ah, mai ridi se amor risponde, piangi forte se non ti sente, dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fior. Dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fior. Il primo cantagiro dove cantavo una canzone firmata con un regista di Genova che fondò il Teatro della Tosse, si chiama, un teatro alternativo, e con lui scrissi una canzone bellissima che si chiama Benvenuto Fortunato. I figli degli operai nascono sotto i cavoli e danno il moccio al naso e sono magri, magri, magri, magri, magri, magri. I figli degli impiegati nascono nelle rose e sono bionchi e rosei e delicatamente profumati e lisci, lisci. Questa canzone nel 1968, me lo ricorderò sempre, mi fece partecipare al Cantagiro e il mio compagno di macchina nel girone dei giovani, chi era? Lucio Battisti. Hai firmato poi con la numero uno. Firmai e diventai amico profondo di Battisti. Amico profondo di Battisti, però diciamo che come sodalizio, Fossati. Fossati, tu se, sì. Se bisogna creare una coppia, la coppia sì, è con Fossati. Sì, è con Fossati, perché Battisti era già in coppia tutto... con Modò. E non si ma può è fare vero che tutto nasce dalla mamma di Fossati? Sì, è vero, sì. Venne in casa mia. Fossati non solo nasce dalla mamma, ma deve gran parte della sua arte alla mamma, quasi tutta. Perché la mamma è una delle poche genovesi che parla l'antico genovese benissimo. E parla solo in genovese, l'italiano sì, quando occorre, però l'italiano gli parla in genovese. Fossati pensa in genovese e scrive in italiano. Ti faccio un esempio. Le ragazze di Milano hanno un passo di pianura. Italiano, se fai un tema, ti mettono blu sotto. Come un passo di pianura. Gran passo de Chanuia, si dice. Capito? Le ragazze di Firenze vanno al mare. Le ragazze di Firenze vanno all'amore. Le ragazze di Milano a un passo di pianura. Che bello da vedere, che bello da incontrare in questi posti davanti al mare, con questi cieli sopra il mare, quando il vento riscalda al suo tempo il mare. Con Fossati andai subito d'accordo, perché il nostro sodalizio si approfondì dopo Jezael. Io viaggiavo sulle navi in quel periodo, no? Registravo. Io sono una volta ho perso proprio la nave per restare un po' in Brasile, mi hanno portato in posti dentro, nei fiumi, eccetera, e c'era uno, Preto Veio, Preto vuol dire scuro, no? Veio è vecchio, che cantava. E c'era un coro di 25 che dicevano che fossero tutte sue mogli, quelle che lavoravano, e rispondevano cantando in coro. E questa cosa qua mi rimase, cavolo. In quel periodo poi c'era era il periodo degli hippie, Mogol che faceva la comune lì, ha fondato la comune. Io cosa? Tornavi indietro da questi viaggi e c'era a Genova un bellissimo locale che si chiamava Cristi. Passava un video di Joe Cocker che cantava con English Mad Band, una roba del Genova, con al piano, mi ricordo, Leon Russell, e ci avevano sul cantava, c'erano biciclette, mogli, cani, c'era una tribù sul palcoscenico, io e Fossati, così scriviamo questa canzone e la mandiamo alla selezione del Festival di Sanremo. Accettano la canzone, festa grande. E allora dico, parliamo a lungo, dico, Fossati, perché non facciamo una cosa così come sto filmato qui? Forse hai ragione, cominciamo a contattare amici. In quanti eravate su quel palco? Ma non li ricordo, ma un minimo 25, 20, 25. Come andavamo tutti questi? La Fonicetra non ci aveva una lira. Come si va a Sanremo? Questa è la nascita vera e la, come si dice, la sinossi della canzone. Come si va? Arrangiatevi. Qui fu geniale il genuano come me, Marco Canepa. Senti, andiamo a parlare col Genoa e ci facciamo dare il pullman. Siamo andati a commerciare con Genoa Cricket and Football Club. no, andiamo a Sanremo, col, mettiamo lì lo stereo di Genoa, tutti facciamo finta di essere calciatori, dai, ci dettero il, sia il pullman che l'autista. Beh, appuntamenti Piazza della Vittoria, che è la piazza più grande di Genova, tutti arrivano, tutti questi capelloni trascinati col pullman, vabbè, qualche spinello a bordo, a quel bordo. Erano gli anni, dai, diciamo. Diciamolo, dai, ecco. Arriviamo ad Alassio e ad Alassio, dentro, fai conto che non si respirava più, apriamo la finestra, il nuvolo di fumo, e c'era un ragazzo, giuro, su un muro proprio in attesa del passaggio del treno lì, che, oh ragazzi, ce l'abbiamo un rosso a bordo, sai, allegri, allegri come pochi, no, dai, lo chiama, ehi, era francese, venè, non ci ha messo un attimo, il tempo di venire, ha già seduto fra di noi, ragazzi, questo qui ha, per 3 giorni è stato con noi, mi manda ancora gli auguri di Natale, no, tutti gli anni. È diventato un ingegnere importante in Francia, così a Paris. Non sono mai andato a trovarlo per... Nei suoi occhi c'è la vita, c'è l'amore. Nel suo corpo c'è la febbre del dolore. Sta seguendo una luce che cammina. Noi avevamo dal vivo uno strumento che suonava il tastierista dei Delirium, che si chiama Mellotron. Tu lo mettevi lì, ma la dovevi accendere almeno un'ora prima dell'esibizione. Facciamo le prove, tocca a noi, tutto perfetto, perfetto. Come scendiamo, cosa succede? Che tocca a voi, entriamo. E avevano spento. Quindi la canzone era tipo così. E tu non c'è la vita dell'amore corale. Un'altra canzone, tutto stonato, una roba. Nonostante quello, per il rotto della cuffia entrammo in finale. Per il giorno dopo, io, figlio di ferrovieri genovesi, mio papà mi consigliò: senti, vai in quel ristorante, c'è un camallo, portalo lì, lo metti davanti al Mellotron, lo fai entrare. Andai al ristorante la sera. E lui, sì, ma ti me fai venire anche mia moglie, voleva vedere Sanremo. Sì, sì. Lui in compenso si è sistemato accanto al Mellotron a vigilare, lo accendemmo in tempo e fu un trionfo. Io però devo chiederti la storia di un'altra canzone, Pensiero stupendo. Ecco, lo sapevo. E tu? e noi e lei tra noi vorrei, non so che lei o no. Le mani, le sue, pensiero stupendo, nasce un poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. E tu, e noi, e lei, fra noi, vorrei, vorrei, e lei adesso sa che vorrei, le mani, le sue, o prima o poi, poteva cadere, sai, si può scivolare, se così si può dire, questione di cuore. Pensiero stupendo, nasce un poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. Era notte fonda, 3:30, 4 del mattino, non mi ricordo. Suona, squilla il telefono di casa mia e Alfredo Ceruti, talentuoso e artista in una band. Una band di sballati. Che erano gli Squallor. Con gli Squallor, da LP tipo Vacca, eccetera. Geniali però. Genialissimi. Ceruti di notte, perché lui lavorava solo pomeriggio e notte al bar di Milano, Santa Lucia, di lì nascevano le sue telefonate. Mi chiama, io mi sveglio e dico: chi è, scusi, a quest'ora? Prudente, ce l'hai una canzone per Loredana? Sì, ce l'ho. Non avevo niente, perché volevo conoscere in realtà la bellissima allora Loredana. Non perdo tempo, perché so che Ivano amava stare sveglio. Mi precipito a casa sua, suono e mi risponde la madre. Porca miseria. Ah, chi è? Ah, scusi, se sono Oscar, scusi quest'ora, ma è importantissimo. Fallo salire, sento che lontanamente, fallo venire su. Vado su e gli racconto: guarda che c'è la Loredana, dai. Nel frattempo, pensa, andando lì, avevo a casa un'idea di fare un giro armonico con la chitarra, stavo strimpellando dan dan dan dan dan dan, con gli accordi che cambiavano due note solo. C'avevo questa idea nuova, no? Che mi sembrava nuova. Ta ta ta ta tan tan tan tan, è difficilissimo, cosa ci metti? Vado su da Ivano e gli faccio sentire questa cosa qua. Poi, sai, lo sfottevo anche un po', guarda, sei molto bravo, e adesso devi superare questa enorme prova, due note via. Ed è stato un genio. E tu, e noi, e lei fra noi. Il giorno dopo andammo insieme, perché allora non è che ci mando almeno la cassetta, no, dovevi andare lì con la chitarra, perché gli artisti amavano sentirla dal vivo, dall'autore, eccetera. Andiamo su davanti e aspettiamo la diva, non arrivavano. Ad un certo punto si spalanca la porta e spavalta più che mai. Allora io mi concentro facendo il belloccio, tutto così, con sta chitarra, e gli canto: e tu, e noi, e lei, fra noi, vorrei, non so, e tutto. E vado avanti un po', e a un certo punto vedo che non reagisce, mi guarda, mi ferma. E tu e noi, e che so, non mi piace e non le è piaciuta. E tu e noi e lei fra noi vorrei e lei adesso sa che vorrei, le mani, le sue. E poi un'altra volta di due vorrei. Patti Pravo ci è arrivato dopo la parentesi di Loredana. Antonio Coggio, genovesissimo, che lavorava alla RCA, l'avvertirono: abbiamo una grandissima canzone che vorremmo farti ascoltare. Ivano mi chiamò, perché io sono abbastanza, ero allora, adesso molto meno perché frequento meno, bravo nel far cantare, sento quando l'interprete c'è, e la cantò bene alla prima. Devo dire che fu una grande cosa. A lei non piacque la prima versione e io mi stavo innervosendo, perché dopo due o tre volte incominciavo a stonare in una maniera, e ricorsi alla menzogna. La canta un'altra volta, al terzo tentativo, terzo o quarto tentativo, che era il più brutto, io bleffai, d'accordo con tutta la sala, a mio rischio, le facemmo sentire la prima. E lei dice: vede, avevo ragione di ricantarla tante volte, mentendole spudoratamente. Sul disco c'è la prima versione che ha cantato. Io ti chiederei di mille altre canzoni, però non abbiamo il tempo, perché ti vorrei chiedere, ti dico quali sono le altre della mia vita. Margherita non lo sa. Ti amo e non lo sai, che è meglio, meravigliosa. Però vorrei chiederti di una canzone che ha fatto davvero la storia, che è Stadium. E il merito è di un mio grande amico, Beppe Viola. Era un poeta, bravissimo. E io lo rimpiango molto. Mi chiamò: senti, devi darmi una sigla ieri, sai come fanno i pubblicitari? Certo. Ne ho bisogno per ieri. Come fanno i pubblicitari? Facciamo una parentesi, sì. Tu, c'è il tuo zampino anche nella famosa pubblicità della Barilla, quella noi bambini degli anni Ottanta abbiamo suonato col flauto fino a... E sono multiforme. Era libera la sala di registrazione, quella grossa, dei Pooh, e mi precipitai senza musicisti, però con la melodia, insieme con l'idea di un giornalista, Nino Petrone. Chi incontro? Una formazione mitica. Incontro D'Episcopo, Tullio, Oscar, mi chiama sempre Oscar, mi chiamava allora, Battisti mi chiamava Oscar da bagno, cioè lo scaldabagno. Invece lui mi chiamava sempre per vicissitudini Oscar Raffone, perché sai, per le storie. Oscar Raffone, ciao Tullio, senti un po', non c'è tempo da perdere, dove stai andando? Lo vedevo passeggiare nei corridoi della Sugar Music lì. Puoi venire a registrare una cosa con me subito? E io so con lui, se viene anche, certo, ho bisogno anche del basso. Poi vado in giro e mi viene mi viene quella roba lì, io chi lo può fare? Chi lo... L'Avezzi. Lo incontro! Fortuna! Senti Mario, ce l'hai sempre il wah-wah? C'era un affare che se inserivi nella chitarra, adesso non esiste più. Hanno metodi più sofisticati, però poi mi mancava il coro, no? Viva viva mi era venuto, suggerito da Nino Patron. Di che viva il Goleador! Il Goleador! Però non era il Goleador. Come faccio a fare questo coro? Ma il coro deve gridare, urlare una parola che non si capisca bene. Allora prendo due LG, su uno scrivo Rumbaladeu, che in francese Rumbaladeu verrebbe, e nell'altro scrivo Strombalador, che insieme chissà cosa viene fuori. Ma a chi lo faccio fare? È necessario che sappiano cantare? No, perché è lo stadio. Allora vado partendo dall'ufficio di Caterina Casella, faccio tutto il giro degli impiegati e ne metto una decina da una parte e una decina dall'altra. Tipo. Con uno, un certo Arturo Zitelli, che era il segretario della Caselli, aveva una voce incredibile da... Andava per gli uffici, ciao, come sto? Aveva la mania della lirico, eccolo che è. Allora tu devi andare lì, guarda, quando ti faccio segno, devi fare viva viva, e lui fa viva viva, hai capito? Ti chiedo solo invece cosa dice il coro all'inizio. e la stripande bassarida olé ardiu strapala rumbalada olé inventate parole che non esistono. C'è solo Stadium che esiste? Sì, che si sente. Si sente. E non sapevo cosa dire, ho scritto cose così. Sempre dite dal coro che dice su dalla. Prima dite tutta questa insieme, poi partono dun dun dun ed è nata la sigla di Domenica Spring. Dopo 4 ore era pronto. Avete ascoltato Come nasce una canzone, i grandi successi di Marta Cagnola, produzione audio Paolo Corleoni, realizzato in collaborazione con Warner Chappell Music Italia. Tutte le puntate su radio24.it.